Cosa ti piace fare con i tuoi amici a Nuoro? Mi piace andare all'Exme, ai giardini, giocare a palla, andare nei vicoletti, non lo so, camminare, comunque non niente di così particolare. Se ti trasferissi, cosa ti mancherebbe di Nuoro? Mi mancherebbero soprattutto le mie conoscenze e i giardini, che comunque sono per me è una parte molto bella di Nuoro, nient'altro. Qual è il tuo ricordo più bello di Nuoro? Il mio ricordo più bello di Nuoro è stato la mia prima uscita in giro. Qual è il posto più bello di Nuoro, secondo te? I giardini, 100%.